facendo, Charlie? Ciao, Mari. Che facendo, Charlie? Non mi dici di fare. Non mi tocci, che faccio? E beh, Luca! Che ti devo fare? Ehi, Lu! E cosa facendo, sai? E cosa mi si rendi? Mentorle! No, sto colato! E cosa stai facendo? Mi sto guardando le canzoni di Parulli, quello che porto. Sto cantando il sangue. Ah, ho capito. Le canzoni che cantava lui, Andrea Parulli, insieme a Maria Carta. Ah, sì, si ricordo. Sono belle, su. E oggi Milano è staccato, hanno una giugana anche, devi attaccarmi sul capo qualcosa, non ho voglia. E cosa di internet, alla linea telefonica. Ma il filtro? No, il coso, come si chiama? Qualcosa quadrato in quelli di figli. Ah, il modem, ti è arrivato perché? A partire mi è arrivato, e poi ieri mi hanno mandato il messaggio. Che da oggi era attivo, ma non c'era stamattina, sono venuto tardi. Poi cadere ero un po' di cose erogate, poi adesso mi stavo facendo la luce e domani me lo piace. Perché adesso me ne hanno staccato la linea, la team, capito? Ma Luca, la schiena stava lavando? No, è Luca, è appena già c'è Paoletta. Entra in PD, tu me l'hai mandato questo, adesso lo cancello. Non si è sentito quello lì? No. E che fine ha fatto? Boh, non lo so. Cioè Maria stava chiamando, mi ha dato il tempo di risponderlo, boh. Sarà all'ascolto guardandosi un film di John Wayne. Ciao Maria, che facendo c'hai? Gianni Maria! Oh, a meno che non si sia venuto un giro in bicicletta a provare le luci, con i breci. Sicuramente. Con un caschetto, il giubbotto fosforescente, quello verde mio, arancione con le strisce fosforescenti. Allora, con la forfora, fosforescente. Fosforescente. Lui. Cos'è sta? Ma l'hai leggito in un giornale? Che su miserabile è morto, ha investito una donna sulle strisce pedonali. Se è fermo, l'ha pure cuta e ne l'ha pigliato la borsetta. Ah, non l'hai cuta. Ah, nell'alzata e non era dove alzare, ma gli ha rubato la borsetta. Ah, no. Cazzo cura Gesù, a castigare a fornire la borsetta. Ma è scappato comunque, peggio ancora. È scappato, sì. L'ha aiutata a Pisassini da poi da castigata. A chi da bovaraccia. Ma te l'immaginate? Si voleva rimanere vivi, no? Magari non li fate anni nuda, è uscita all'improvviso, li dizia, no? Certo. Beh, imbecille. Lui è per carità, va. È che non stanno attenti, si baciano a palla, è morto, ma io non voglio mica assicurazione. E l'altro giorno stavo guardando su internet, il giorno, la settimana scorsa, c'era un blitz della polizia, finanza e carabinieri, tutto lì la zona di via Roma, piazza d'Italia, piazza di Vecchio, Allora, Piazza Italia è fermo, una quarantina di persone tutti quanti in busciacca all'anno con piccole dosi di marijuana. E poi hanno investigato un uomo anziano guidando la macchina senza patente e senza assicurazione. A te immagini lì in Piazza d'Italia. Bubu, la carità, è un casino, perché se ti fermano le mani, investi qualcuno, ti mettono in galera. Sì, sì, adesso c'è la galera, cioè. Se tu lo investi e non ti fermi, che ti innanti, c'è la galera. E ho missione di soccorso. Ehi, e se ti fermi, galera non è fai, perché la stai aiutando e ti si fermi. Ma se ti la calzighetta ti distribuisci e ti pigli tutti le colpi praticamente, pur magari se non è colpa tua, se nessuno da mezza di macchina non vi sono pedoni, passaggi pedonali lì, se ti dà un tonto di colpa, ma non in piena, capito? Sì, già lo so, grazie. Vabbè, faccio un male ti ci racciappani. Quindi è gente imbranata, stamani già, per carità. Ma finora era sempre gli altri menni, a destra e a sinistra. A che non si filmava la rotatoria, Bariani, a Monza, Bariani, in questa rotatoria gli piace sta mercato. Per carità, non rispettano niente, né destra né sinistra, nulla. Ci vuole fare, grazie. Cosa ci vuoi fare? Ma io spero che li trovino, dai, alla fine. Chi sbaglia paga. E allora, cazzo, da domani è morto, non vedi uno che attraversa lì, gli arabesi la battuta. Roba la macchina. Io ho battuto un periodo che va via l'Uvespino da ragazzino. Ma che mai gattegata nessuno, lì che ero gabbi sciabitato e morto. Eppure non ho manco sfiorato, a nessuno mai. Lo so, un attimo, ma anche se hai un bicchiere di birra di troppo, sei fottito, Ma vede che io non la posso, no. Ha guidato un camion, cotto qui la palla, non so cosa vuol dire se cotto qui la palla. Eppure l'ha guidato, salendo da Cagliari, a un certo punto che mi sono ripreso, mi sono trovato, ci sono quattro sulla sinistra, nel rettilineo di Macomè, prima di imboccare la discesa di Bologna. E io vedo cantenni, di riuscitenni, poi mi sono avvicinato di giusto. Mi sono accorto che ero tutto sulla corsia a sinistra, invece di essere sulla destra. Ero sulla sinistra ed ero carico d'arancio. D'arancio l'avevo caricato a Muravera. Figura di giù. Ma la male erano le 4 di notte, una cosa così, perché viaggiavo con il sopraccarico. E male non avrei tu visto. Ma c'è pure tu a dirlo a me che ti ha curvato, con cazzo e ti vuole guidare, ma ti vergogni. Io Mari, Mi male non avrei tu cazzo a lui, buonasera E siete buono con cazzo, di la verità però. E allora? E comunque sono arrivato quasi per imboccare la discesa e mi sono ripreso del vento, mi sono accorto che è una giubbata in strada e alla parte opposta, un bel giubbato, capita di bobo. ma anche altre volte, non sono lì, ma prima non era come adesso. Ah ma chi si ti avano preso buono a bico, ma ti vedi che si ammazzano il giubbo. E ti vedo tu che invece con un quadro eri sempre bivenni. Ma dove devo mettere un mio, se sta servo stesso o no? Lume vera se sta servo stesso, io sto parlando all'inizio con un Fiat 650, il Fiat, l'OMT Grotto, che ci vuole vedere il manubrio, Oh, comunque c'è un italiano che serve al fatto, non una via ne chi si serve al senso. Ehi, come te lo miro una via? Cazzo, papà Marocco, quando ho capito a per darti che è andata da Santa Rita, si dirà a papà di Brazzi, fa carizzare, cazzo. Se mi puoi in piedi, io, ma terza, quando ti vedi a papà Marocco, fa molleggiare, per immaginare un manubio. Ti canto era addosso, se non me li porti, chiamavo un vicino che verrà con me, e lei dice aiutami a girare lo stesso, se puoi a buon da aiutami a girare lo stesso. Forse chi la palla era, vedi come stava che lui gli dice, un buffo. Invece quando abbiamo sentito e detti, chi si verrà via, chi si verrà via, vedi, con di salire, buono via, piano caro, con il mondo lo stesso. Chi si era bambino, un bel maneggevole, già l'hai conosciuto se ti dici, chi ci vuole la doppia ruta da l'altro. A voi là, che l'hai conosciuto, l'hai guidato anni, l'ho guidato come autobotte, come camion cassonato, ribaltabile, come tendonato, a voglia l'ha guidato. No, ma prima va, e ha guidato lo 50, lo piatto 50, lo ruffetto, lo di grosso, Fiat gabina americana 650. Poi ho guidato l'U43 e l'82, chi ci non aveva ne di servo offerto. No, non lo servo stesso, non l'aveva 82. Insomma, infatti, era 82, non la via. Mentre invece un 7 la via. Questo era 7 metri e mezzo, cazzo una gentilatura. 7 metri e mezzo era. Quello sì che ce l'aveva, quello lì a voi ce l'aveva, pure il manturbo che ho avuto io, i tre assi, quello lì ci aveva il servosterzo, tutte le altre macchine poi sono uscite tutte col servosterzo. Aveva nemmeno le macchine, lo servosterzo. E una macchina che l'ha giubilata, chi mi vede ora la butto o no? Non l'ha voluta guidarla, chissà chi era senza servosterzo e mi diceva che era un mezzo il manubrio. E per quello l'ho anche venduta con la macchina e mi ho comprato questa di adesso, che lui gli dico un buffo, lo manubrio, a chi va lo servosterzo. Lu, il tuo avviato dello stesso a morto. Ah, oh, io voglio una bicicletta. Ma la macchina è abitata e avviato no. Sì, lui finà. Cazzo, Gio Mario, non ho più macchine senza se vuol senso. Le macchine vecchie, sì. È una cosa buona, eh. È una cosa buona, però, scherza. Con il tuo Italia c'è più lesine, ma fai i mobili che ha tu un'80, un'80 senza se lo stesso carro, qua vicino in muovi, divino grazie. Oh, la mappa se ne va se farà, per carità. No, poi tutti quelli superiori dall'82 in su, li ho trovati tutti col servosterzo. Gli ultimi anni che ho fatto l'autista oramai non guidavo più macchine senza servosterzo. Sì, è capitato qualche volta a fare qualche viaggio a casa amico mio con un camion giù di bici e di là senza servosterzo. Se no oramai sono tutti con servosterzo, mi dare pure il furgoncino, va. Cadono quella cooperativa col pettinaro, cacciavate un cadono di ciabano, mi la metto, sì. Non era l'80, era più un manno, cazzo, chi c'era senza se fosse senso, mamma mia, cazzo, chi su cazzo era pesante e fede, poi con i marci, cazzo, di prima, cazzo, non erano sincronizzati, ma carezzare, cazzo, e su cazzo, la mia giuccia brutta era fare il cotone giallo sulla buccia, carichiamo di sempre ghiaia e sabbia, io a Campomera, come di fase di rugoso, come si chiama, beh, il cappello per la fiera fasia, no? Allora io tutti questi materiali, questa ghiaia, sottile se la dimostrata io questa macchina. Allora lì di la giudizia brutta, ha preso con i vitali, e dalla città per tirare il dragotto, ho fatto la bundita, ciao, mi ero cantato. No, anche il 40, l'ultimo 40 che era uscito di camioncino, furgonato, con cassonella mirato e sportellone al libro dietro e al libro laterale, gli sportelloni era. E più faceva la basista, sollevava tutto, ma fa l'ambulante. Quello lo stesso, era l'ultimo modello del 40, pure quello era senza servosterzo, ed era degli ultimi il 40. Tutti così, Bonareggio un altro, mi tolto qui la palla. Caggio su lato, il muro, via. Con chi si macchia, viaggio su lato. Girava tutta l'Italia, girava un cazzo qui sul camion, che perché l'Italia. Però mi è andata sempre bene, là. Adesso a guidare quel camion, adesso, da quando ha ricominciato il servosterzo, è come se gli si è bruciato una poltrona. Io non ci piglio neanche il gusto, o non ci prendevo molto il gusto. Sembra una cosa, così, non pare nemmeno bruciato in camion, pare bruciato in poltrona. Adesso è un'utilitaria, lo cambia un'utilitaria, va. Chi si bestione manni, no? Attacca il sopra, ma fare posare il portone veramente. Catta, è troppo comodo i giochisti, chi sa, troppo comodo. Poi la veduta, catta, sul posto di guida la vedi bene, che è una meraviglia. Prima no, per carità, però l'era moderna, adesso già stanno bene gli autisti, non come quando ce l'avamo noi, per carità, ragazzi. Adesso a fare l'autista è da signori, a fare l'autista. Ti sto dicendo che è sempre seduto in poltrona, e in poltrona non si tracchi, ma non danzi, si stufi, perché non fai nessun minimo di sforzo, niente. Tutto leggero, tutto automatico, un silenzio, un riscaldamento, io era così prima già, ti consigliavo una cosa del genere. Luca, riprendi. Aspetta, grazie, siccome ho messo il computer a vendere, sto mandando un messaggio, sono in sì, tutti lo vogliono, il prezzo è quello, lo posso scendere, sono sceso di prezzo, è abbastanza nuovo, adesso questo qua ma sono nuovo di 100%. Ehi, fate arrivare di là prima, ossia che lunedì al 100% non ne vedi né 100 né 50. Ma non messaggio, tanto mi devo alzare, dai. Così è Giomari, non viene più, no, per rivici, qualcheduno ce l'ha qualche muscolo di fame, vi dà ancora, proprio, a chi magari non si può più chi manca pigliato un furgone, sino per lo più si danno i giochi lampati. Già non fai più travaglio, cosa ne fai più di un carro? No, non si fa di travaglia con tutti i cigani in bocco, con vari posti patenti, CQC, i nuovi CQC, che già sempre a sforzare in là, e che ti dico c'è una patente. Ciambati, no, è tutto cambiato, tutto moderno, all'asmo. Prima ci stava bene, infatti, magari. Lo da chi grafo è bassa, ma per cui non beh, c'è da ori, devi guidare solo a ori e bassa, devi guidare per accertare tanti ori, da voi devi fermarti ma forza, e da voi devi riposarti, e da chi si riposi devi riposarti tutta orario, va. Marcello, prima non vedo i tuoi chilesi, per cui ma io c'era più tranquilla la cosa, mentre la bisogna stare attenta, sennò se lo multava, multava così e oh yeah. Perché prima si salvava, mi dai. Adesso non fa da fa la uscita, e ma si fa? Già venivano in poco di dinà. Là, il cucino deve revisionarmi in bar ogni anno, e ogni anno deve sborsare a dinà, e deve andare pure alla scuola guida a 3 mesi. Nell'arco di 3 mesi non so quante presenze devi fare nella scuola guida. E più paghi. E gatto di goccia che abbattete ma fa l'autista. Ma buffurelli, no, non esiste. Non fa più a fare quel mestiere lì. A meno che non vai lungo il travaglio che si cose di ripagare un datore di lavoro, anche se no non conviene più. Anche quello, Bah, vedi ciò, ammazza, raga, tutti i dì sempre camminando, gatto, e fanno i soldi, gatto, la parete, chi si rifatti di strada, gatto, ma allora pure, fa prima ieri la siciliana, gatto, poveretta. Ehi, se c'è una ditta buona che si è pagato bene, non conviene, perché ti costa un bel mantenere la patente. Anche se ti bisticheggiano i guidati, la patente non è rinnovata, ti ribugli in galera e ti ribugliano la patente, non c'è malato. Ehi, facello, per carità. Gatta, tu gurride, gatta, fa fare il tempo ad accargare, da voi devi camminare, fatto rappa per poter riuscire ai macani, gatta. E se vuoi che se vi scioppi, se sarà un paio di fermo, gatta, in un bus, a Civitavecchia, oppure a Livorno. E anche pure a Piombino, tutti. Però a Piombino il macani, bisogna che viene a Edre. Mette a Civitavecchia, a Livorno viene da uno, giù. Ah, tu non te ne sei avvisato, non hai visto che il camion di padroncini non venisse più? Non te ne sei avvisato che non venne più? Che si camion che viso? Sono i camion di litigi, delle aziende, però come padroncini, autisti come ti canti qui da minui, a padroncini, non venne più. Guarda se ne vedi niente, quelli che fanno le consegne sono Bartolini, Latemi, questo di te qui, però come padroncini, non ce ne sono più. Hanno emulato tutto, ha chiesto il burro di circuiti e devi sborsare di là ogni anno, hai compreso? E oggi ho trovato una carriera, chissà. Sì, lo capannone della noce a Pozzodorra, prima entra a Pozzodorra. Quell'asilo, quell'asilo ci troviamo, fa fare la penna al padroncino. I suoi delinquenti mi carregava la macchina veramente a te, fa di cazzo, fasi a un butto di lì, cazzo, mi giri brutti che fai la tazza a me, cazzo, tutti i libri per la mafia, cazzo. Per carezzare paesi fatti, oggi mi ho trovato io ragazzi, vedo un camion e non ho fatto vivo io. Per carezzare, gatto. A far di soldi, vai notti. Io già l'ho fatto in un bel di lucchi. L'ho fatto da Grendi, a Contumino, da Aroni, da Nieto, da Burate Parodi, alla Ginar. E sta da signora Maria, la Papperetta, Prdanetta, e alla Gondrand, da Noce, l'ho fatto di travagli a Contumino, padroncino, ed erano i giusti brizzisi, per carità. Ma da via mi sono occupato l'occhio buruino, ha imparato il buruino, come ti fai alle lacrime. Marcello era allora. Un attimo, mi aspetto a 10 minuti, grazie. Già sono qua, già attento. Beh, dormiti siete. Io sono qua, Gio Maria si è assentato, tu. Ho capito. E io, adesso mi ha già uscito quello là per il computer. Se non vuole, bene, se non se la abbigliai come te posso, ma non posso stare in chivia per il tempo. Sono i setti, sono i rubuni. E nessun rubu, E cosa rubuni? Arregaro rubu. Allora, uno mi ha scritto, ti posso offrire 120 euro, gli ho detto, ma proprio no. Anzi, stamattina uno 130, 140, non l'ho dato. Poi un altro 120, ha detto no, 150 voglio. Ah, vabbè, ok, grazie. Poi un altro era interessato, ha detto che mi chiamava a pranzo, dopo pranzo non mi ha chiamato. Adesso c'è questo qua che è interessato al 100%, però lunedì non vuole. Ma ho visto sul telefonino, con prevendo Sassari, ce ne sono vari prezzi. Grazie, ma Romeo è tutto pulito dentro, non ha pingu, Sia dentro che fuori, è tutto revisionato, con le mie mani, ed è perfetto. Ehi, amico, sto guardando, con prevendo c'è un compressore da 25 litri, che è minore, 60 euro le vendette. Di chi si vede i danni alla briccome? Sì, già lo so, ho già visto. Ma che io controllo, Su Market. Ma a nuovo costa, mi sembra sulle 70. Alla briccome, chi tu le vende in 60? Ma chi sei matto? Io quello da 300 litri, da 300 litri, ce l'avevo io tanti anni fa, l'ho venduto 300... Non ho capito, Grazia. Cosa hai detto, Grazia? La batteria ti si è rotta. Luca, è finita la batteria. Già me ne sono avvisato. Ti stavo dicendo, c'è un Archer, 119 euro lo sta dando, senza tastiera. Lì a questi affianchi. Ma ne ho visto altri, ieri ce n'erano di più, riesci a finire questo. Chiedini Daniela 4 euro. Beh, io ci ho pigliato una gatterella d'oro. Se c'è vendendo. 10 euro. Una gatterina d'oro 10 euro. No, è bigiotteria. Colore oro. 10 euro le vendendo. Ma si vende il burro un capo, si vende. No, evidentemente si dà cumpalata, ribari la vetta. Mi bracciale, uomo, bracciale. Bigiotteria, idea regalo, 10 euro, un bracciale. Poi una catena. Ma, mi già ho bisogno di roba, se lo so. Si vendono magliette, 5 euro, va. Cazzo, fai un cellulare incendiato. 180 euro lo sto vendendo. Salve, vendo Huawei P20, scatola e tutto completo. Però quando lo uso nel caricabatterie si spegne. Lu, bello bene. Aspetta, mi sono spostato, grazie, stavi dicendo? E quando lo uso qua, dopo un po' si spegne e lo devo spegnere e riaccendere. Ma l'hai messo nella basetta adesso? Ehi, ma però quando parlo, dopo un po' si spegne del tutto. Non è batteria? No, è a zero, di questo no. Ma tu fai come me, ogni volta che lo usi per, un'ora, cosa fai? Lo metti a caricare. Entra la notte, quando arriva il freddo lo levi, lo lasci lì buttato senza caricare. No, fai come me, io quando finisco di parlare, lo metto in cameretta a caricare, poi domani mattina Marina me lo stacca. Ma chi tu vuoi che non vi diventa mai? Sempre lui, tu lo si usa con tutta la notte. Che vuol dire che lo scarichi del tutto? Per forza deve diventare verde. No, tu rimane sempre rosso. Allora non sta caricando. Sì, già carica la batteria, già me la segno, è a zero del tutto, è bianca. Ma è strano. Ehi, è biuta, non si vede nulla. È vero, soia. Siamo lì, che facendo c'è? Sì, comunque vedo un po' di modesta lì nel gruppo. Addirittura stanno prendendo schede madri, 21-3, 20 euro, ma cosa tenevi qua? Manco nella mondezza la ciappi, anzi la ciappi nella mondezza. Sì, un Samsung SS7, 200 euro, sano di gappo. Lui è per carità. Non è poco mondezza. Ma ci sei nel mio gruppo, vendo scambia sassari. Io guardo sempre lì. No, ho capito. Ma non hai mai messo niente? Ma che cosa l'ho messo l'altra volta? Ma non hanno incomparato il mio cavallo. A rigare una buona la goccia. Lo so, grazie a me lo si distendi. Per carità. Adesso se io metto una cosa a vendere, è quella, non te che tu mi fai 120, 130, 135, 150, non lo vuoi, lascialo. Non te stai, io non ci sono buono. E ti busto di, guarda, se vuoi scendere di prezzo, vedi un po', poi se mi dice no, non insisto, cosa stai, 120, 130? Cosa, una dirbili in un violino, 60 euro, la dici, se le vuoi te ne do 60, perché nuovo costa 80, il negozio. No, no, e te ne dico, da poi mi ha telefonato a verso l'uguria. Un violino? Sì, un violino. E quanto costa? Il negozio quello lì perché era piccolo, 80, era per imparare. Capito. E la dice, tu sei matto, vai lì al cavalcavia, al ponte, per andare in bene portatore e vedi quanto costa, guarda qui. Lo sto dando 60 cento. Vabbè. Di solito si tira al presto, ma quando ti inizia a tirare da troppo, allora meglio dirgli di no e buonanotte. Perché devo fare quel presto lì, non ho capito. Io voglio quello che ho messo, l'ho messo da 170, che vale 180 euro il computer, è nuovo, e da 180, vabbè, 160, 170 sono sceso. Eppure 150, di me non lo scendo, lo tengo a casa e ci prendo il gate, non me ne frega niente. Ce lo vuoi, tu lo metti, non l'hai messo qua, sul telefono? Sì che l'ho messo, sì sì. E oggi non ce ne sono altri, solo quello là. Ieri veniranno un bel. Poi molte volte che serve a me un computer, va. Mi vendo i 10. Quant'è? 250 euro, un telefono macco. Sì, ma qui giuro. È un problema di negozio. E stavo al canale 5, quello di su, di su, giù mezzi, guarda, 100 miglia. E lei ha 175 mila euro, vabbè, spero 100 mila, 75 mila euro sono buoni, Mari. Bisogna vedere se quello succede al contratto, se lo strappo, se lo Beh, doppietta franchi, Monte Carlo, calibro 12, in ottime condizioni. Però presto non ce n'è qua. Ma fucile, cos'è? Una carabina? Oh, è fucile, doppietta, due colpi. La doppietta, la gullù. Ah, sì, sì. Cosa ne fai? Già è bella, però sono passate di moda. Ma fratello, è rosso come fucile. Luca, beh, una gugliubendici, tutta scintigata. Sta sposando? È vero. Da domani Luca, tanto si spegne sempre. Ciao. Ciao, grazie, dai, ciao. A domani. Buonanotte, sono da Paoletta, ciao. Ciao, domani vado al vero, alla bici. Via, ciao, bacioni, ciao.